Allora, l'ultima volta, Lucri, sì, abbiamo terminato parlando anche di, del premio di Amnesty International per la canzone, appunto, che parlava di diritti umani e vinta appunto da Niccolò Fabi. Però fra i vari artisti candidati ce n'era una in particolare che a noi ha colpito, e abbiamo di fatto fatto un appello a questa persona. È vero. Poi in una settimana è successa qualsiasi cosa. È vero, abbiamo messo una storia dove dichiaravamo pubblicamente il nostro amore per Margherita Vicario, diciamolo, e questa grande artista però l'avremo anche nella nostra città. E perché, Lucri, perché? L'avremo nella nostra città. Il mio microfono inizia a essere ballerino, quindi se salta il tu intervieni. Però perché è così importante parlare ancora di Margherita Vicario? Innanzitutto perché è un'artista straordinaria, secondo me è meritatissimo comunque anche la sua partecipazione a questo evento che ora vi racconteremo. E sabato ci sarà la giornata mondiale del rifugiato, e praticamente il comune di Bologna, Radio Città Fujiko, l'ARCI e tantissime altre associazioni hanno organizzato al mercato suonato questo, diciamo, concerto. Incontro. Finalmente ci vedremo live, e suoneranno Margherita Vicario, Raresh e Murubutu. Poi in realtà sarà una serata all'insegna di tante cose belle per, insomma, comunque continuare a lottare contro qualsiasi tipo di stereotipo e pregiudizio. Certo, sarà bella variegata, no? Sì, è un bel melting pot di tante cose. Ci saranno esibizioni teatrali, ci saranno appunto questi concerti, e quindi bello, dovete esserci. In realtà c'è la possibilità di entrare come pubblico, ma ahimè i posti sono finiti, perché sono finiti subito perché comunque sappiamo tutti che già riuscire a fare un evento live in questo momento è difficilissimo, certo. Quindi i posti sono pochissimi, però sarà bello perché finalmente si torna live, finalmente vedremo degli artisti live, ma soprattutto questo maxi evento si potrà vedere in tantissimi modi diversi, perché ci saranno varie dirette Facebook, sul canale Lepida TV, sul suo canale YouTube, ma soprattutto ci sarà la fantastica diretta radio. esatto, quindi insomma ci saranno più modi per poter fruire di questo meraviglioso concerto che insomma unisce diversi artisti, e sarà bello in qualche modo risentirci vicino, no, a un live, perché è fantastico effettivamente a tutti gli effetti. Per quanto mi riguarda è il primo concerto a cui, però già in realtà ieri hanno iniziato con anche il Locomotive, esatto, insomma sì, a esserci dei concerti con truppi, quindi insomma, che mi pare che Erika e Mauro ed Erika siano andati loro c'erano quindi insomma dai, è tutto molto bello. E allora, parlando un attimo di Margherita Vicario, che durante questo periodo comunque non è rimasta inattiva, perché in realtà ha tirato fuori un pezzo che ovviamente aveva scritto già qualche mese prima, un pezzo dedicato alla cugina, si chiama Pincio. Il Pincio, per chi non lo conoscesse, è uno dei colli di Roma ed è uno dei miei posti preferiti nel mondo. È meraviglioso, chi non c'è andato ci deve assolutamente andare, c'è questa vista spettacolare che quindi già il titolo fa capire che è una canzone bella. Sì, assolutamente, molto già suggestivo, evoca già delle immagini molto belle, e Roma insomma, però appunto il Pincio è dedicato alla cugina. Però una cosa molto bella di questa canzone è il video musicale, anche perché è stato realizzato appunto durante questo periodo di quarantena da fra l'altro suo fidanzato, che è un videomaker abbastanza conosciuto, ed è la cosa bella che sono stati presi diversi frame di video di balconate varie, e quindi insomma è molto molto suggestivo, molto rilassante vedere questo video, perché vedi appunto nonni che cucinano, magari fanno una grigliata sul balcone, o bambini che giocano col pallone. Ovviamente si parla magari di terrazze un po' più grandi, però però insomma comunque era, visto che era un po' l'unico nostro modo di respirare, il balcone è bello, dà un bel immaginario, molto rilassante quella canzone. Infatti lei ha raccontato in un'intervista che ha deciso proprio di pubblicarla in questo momento, anche se appunto l'aveva scritta un po' di tempo addietro, perché in Pincio c'è tutto questo, come ci hai raccontato tu, le piantine, il coraggio, lo sguardo da strega, sì, e soprattutto la ricerca di una cura fatta di rimedi, stanchezza e pazienza, che potrebbe essere adatta alla situazione attuale, la situazione che tutti in realtà proprio a livello mondiale, planetario, abbiamo vissuto, e forse quindi anche per questo che inconsciamente ho deciso di pubblicarla ora. Quindi io direi che ce l'ascoltiamo, e soprattutto non vediamo l'ora di vederla sabato sul palco. Tuo figlio avrà gli occhi neri, non so se andrà andrà bene a scuola, si è preso da sua madre, allora la vedo dura, ma tu senza nessuna paura saprai dargli col seno l'amore e se del pincio che mi offri un abbraccio mentre io do di matto, severa come una strega che fa congetture e prega per la sua piantina che è rimasta nel vaso, ma da mille frutti con cui farci un gelato, che so 30 anni che lo mangio, anche quando è più aspro. E poi 300 scalini in salita di corsa per salvare un povero gatto ci sposo malato, buttato in un angolo. Senza più coraggio mi prendevo il tuo, lo faccio da sempre, per sempre lo farò, perché tu non sai quanto ti voglio bene, ci vedo da vecchia bene, col tuo sguardo ti squincio sul terrazzo del pincio che mi offri un abbraccio mentre io t'ho di matto, severa come una strega che fa congetture prega per la sua piantina che è rimasta nel vaso, ma da mille frutti con cui farci un gelato, che so 30 anni che lo mangio, anche quando è più aspro, mi basta un abbraccio. Margherita Vicario, Pincio, questa bellissima canzone non è stata messa a caso. Noi siamo appunto su Radio Città Fujiko, Fujiko Factory, Ile e Lucri, e non è stata messa a caso perché appunto questa grande artista sarà proprio sabato, questo sabato, ad esibirsi al Mercato Sonato, dove ci sarà Lucri assieme a Claudio a presentare questo concerto che insomma apre finalmente in qualche maniera un po' la stagione, che ci dà un po' di speranza per i concerti magari futuri, ecco. E allora Allora, noi stavamo un po' tremolanti prima, perché abbiamo paura che da un momento all'altro potremmo cadere probabilmente. Però, come ti dicevo, sarebbe Radio Verità. Radio Quindi, Verità. Se Radio dobbiamo Verità. Cadere sarebbe in lo diretta facciamo. E lo facciamo per il nostro pubblico. Con tra l'altro, stile, con stile sicuramente, quello sempre e comunque. Tu dicevi giustamente che io e Claudio saremo fisicamente al Mercato Sonato, ma poi Radio Città Fujiko sarà direttamente in questi studi, trasmetterà e commenterà tutta questa gigantesca gigantesca sì. Ma ve lo chiediamo a voi come si dice, al 333 180 94 94, in cui potete farci sillabarci appunto la parola gigantesca. Ma voglio proprio gli audio, perché ci sono quelle parole che mentre sei in loop inizi a parlare, inizi a incasinarti nella parola, quindi non è facile, no. Ma soprattutto al 333 180 94 94 potresti anche mandarci degli scioglilingua. Io sono negatissima. Sì. Tu come te la cavi? Allora io so dire 33 trentini entrarono a Trento tutti 33 trotterellando, ci siamo. Però se dovessi ripeterla un'altra volta, poi un'altra volta, vabbè, è lì che casca l'asino. Ho fatto la bella figura all'inizio, non vogliamo un attimo reiterare, insomma, questo. No, io devo dire che sono negatissima, perché mi impapino. Però quella lì dei 33 trentini che entrarono a Trento tutti 33 trotterellando, in realtà è fattibile. Ce ne sono, cioè tipo quella della capra sotto la panga, la capra, quella lì già. Ma anche per una questione di associazione semantica, la capra quindi dov'è che mi sta, cioè quindi è sopra complicato o sotto, sopra io dove sotto. Sto sopra o sotto diventa un po' complicato, ma sicuramente appunto sabato sapete dove ci troverete, a me e a Ile. Ma soprattutto il titolo della manifestazione di quest'anno è proprio Never More Freezing, che ha come tema centrale il senso di attesa, l'impressione di esilio, ma anche la speranza e il desiderio di rinascita. L'emergenza coronavirus ha portato tutte le persone a sperimentare, forse si può dire per la prima volta, uno stato di freezing, di blocco, di attesa, che abbiamo passato tutti, insomma. E quindi è un presente congelato che è vicino ai giorni che vivono i richiedenti d'asilo, titolari di protezione internazionale e rifugiati che arrivano in Italia e vivono nei progetti di accoglienza e integrazione dei territori. Quindi io sono molto felice di partecipare a un evento così importante, che vi ricordiamo essere la giornata mondiale del rifugiato 2020, che si terrà al Mercato Sonato. Tantissimi i modi per poterla seguire, perché oltre a essere fisicamente al Mercato Sonato, il concerto sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Bologna Cars, sul canale YouTube Lepida TV e sulle frequenze appunto di Radio Città Fujiko 103.1, poi in realtà anche dal digitale terrestre canale 118 e 5118 di Sky. Cioè, oddio, però dai, sono numeri abbastanza facili da ricordare. Beh, 118 è un numero che in un qualche modo è facile tende da ricordare. Esatto. Vi dicevamo che appunto non ci sarà a calcare il palco solo Margherita Vicario, che devo dire, io sono anche molto curiosa di sapere come sarà vestita, posso dirlo, perché sto scegliendo il mio outfit. È vero. E quindi sarei curiosa di sapere anche lei. Magari come ci sarà potrà vestita. Essere un confronto, no? Tipo, ma secondo te le scarpe ce le scambiamo o no? Sarebbe carino. Sarebbe come molto cosa. Divertente. Sarebbe carino. Ma però un'altra no, non è persona, l'unico. Esatto, è tra l'altro una persona che ho già presentato lo scorso anno al primo maggio di Bologna. Lui è Muru Butu e si può dire che lui è diventato celebre per la sua capacità di offrire dei contenuti alti, filosofici e letterari, ma mischiati al rap italiano. È un colto, anche perché appunto i suoi testi non sono magari, ecco, banali, anzi sono sempre molto, molto filosofici, molto profondi, molto che devi anche stare lì ad ascoltarli da solo in cameretta e cercare di tirarci fuori tutto quello che veramente sta cercando di comunicarci, e magari è così, non lo so, ti fa un attimo riflettere, no? E soprattutto ha sicuramente quell'imprinting da professori. Mi ricordo che sono rimasta colpita l'anno scorso sul palco del primo maggio, perché c'erano tutte le prime file suoi alunni o persone che avrebbero voluto averlo come professore. Ma quanto è veramente strano avere un professore che di giorno ti fa il prof, di notte la vita loca, esatto. Nei locali lo becchi ad un concerto a cui vai, ma prof vado a fare sterata e la becco, cioè sarebbe molto carino. Beh, mentre io magari avevo professore di 60 passanti, che la movida mi sa che è proprio un po' come Conte, che diceva no movida, no party. Che a proposito di Conte, non è stato fuori. Citato a caso, ma dovete rimanere sintonizzate e sintonizzati per scoprire perché vi stiamo citando Conte. Sicuramente non trasmetteremo una sua conferenza stampa, non parleremo di politica, così ma ovviamente abbiamo invertito un attimo l'argomento, gli argomenti dei palinsesti.

Questa è Murubutu con La vita dopo la notte, bellissima canzone. Devo dire che abbiamo mantenuto un po' il mood con queste, esatto, tre canzoni che poi, trasmesse. Se noti tutti gli ultimi più o meno 10 secondi della canzone, ancora questo fruscio rilassante, un po' di relax, che bello. E poi parte la nostra bellissima base ugualmente rilassante. Insomma, esatto, vi abbiamo un po' trasportato con questa sorta di lieve malinconia, no? Un po' dettata dal tempo, un po' con la musica, il pincio, Murubutu, Lurid, insomma, bello. Ma anche perché, insomma, vi culliamo. Abbiamo quest'ora e mezza in cui ora vi culliamo un po', vi raccontiamo di questo bellissimo evento, ma poi lo possiamo un po' spoilerare, vi portiamo indietro. Cioè, adesso vi abbiamo portato a sabato. Esatto, ma avanti. Fra pochissimo vi portiamo indietro, ma un salto di ben 10 anni. Eh sì, facciamo e un po'. E probabilmente vi facciamo anche ballare un pochino. O farvi dire, questa non me la ricordavo più. Sì, quello è proprio l'intento. Quindi continuate proprio a scriverci al 333 180 94 94, ma quello che volete, anche cosa avete fatto in questo weekend, cosa farete sabato, se sapevate del concerto e soprattutto cosa vi aspettate nella prossima mezz'ora di fra 10 anni, no, 10 anni fa. 10 anni fa, diciamo che è un po' un passo di danza questa puntata perché siamo andati avanti e poi indietro, avanti e indietro. Quindi insomma un ballo di valzer, ecco. Però adesso, appunto, a proposito di un altro passetto avanti, ancora sempre legato al sabato, un altro artista in realtà, perché poi ci saranno altri appunto intervallamenti da tante altre cose, però un artista che ci sarà appunto Reirs. Io spero di averlo pronunciato guarda, nel è la modo. Prima volta forse in radio che correggo io una pronuncia, non vengo dica, corretta dica. Io dovrebbe essere Raresh, perché in un'intervista ho proprio letto che la finale va letta come la di scemo. Ah, ok. Quindi okay, deduco sia Raresh. Però sabato che lo incontro gli chiederò espressamente come si pronuncia il suo nome per evitare un'altra ragione per ascoltare sabato appunto la diretta del concerto, oppure vedervelo lì per scoprire esattamente come si pronuncia questo nome, che in effetti lui appunto, è vero, ha detto che non è un nome d'arte, ma è appunto è il suo nome di battesimo, e quindi è ragione, si dice proprio con la esce di scemo. Sto leggendo Aurora, interessante questa cosa, perché siamo abituati a inglesizzare un po' tutto, quindi in effetti mi è venuto un po' così, Reirs. Vabbè, ma che in realtà è bello, a parte che effettivamente ci credo che l'abbia tenuto come nome d'arte, perché è un bellissimo nome. È bello, originale. Originale come in realtà anche lui, che è appunto anche uno dei nuovi volti più promettenti dell'indie italiano. Per me è la prima volta che lo seguirò e sentirò live, quindi non vedo l'ora, perché appunto è uno dei protagonisti del mercato sonato. Abbiamo scoperto come si pronuncia, ma lui cosa fa nella vita? Scrive canzoni, suona la chitarra e con un paio di amici si suona in giro. Quindi bello, lo fa da anni e tra l'altro anche lui ha vissuto un po' il sogno del fuorisede. Io in questo mi sono immedesimata molto. Esatto, sì, perché lui appunto lavora a Bologna come cameriere in una tigelleria, ma studia anche musica elettronica al CONS, quindi insomma, anche se lui appunto c'ha casa a Venezia, quindi si alterna un po' tra Bologna e Venezia. Ma è appena uscito, se non sbaglio, il suo album d'esordio, che è Curriculum Vitae, è bellissimo. Cioè già a me il nome mi piace, sì, tantissimo, anche a me, perché mi ha già conquistato. Ci evoca appunto tutte quelle volte che abbiamo mandato curriculum così ad cazzum. Infatti, questo album è composto da 11 tracce o esperienze. Mi piace tanto già questa definizione. Sì, perché qui effettivamente sul curriculum vanno messe le esperienze, che poi tante volte noi giovani diciamo, ma esattamente che tipo di esperienza devo dovrebbe mettere? Esatto, no, se ma sono poi un pischello. Ecco una cosa che potremmo chiedere al pubblico, ecco, se magari ci scrivete le vostre super cazzole di esperienze, perché a volte no, fai una cosa, poi ovviamente non sai più che cosa scrivere su questo curriculum e la prendi un po' molto alla larga, ci ficchi dentro. Tipo io una volta, racconto questa, sono stata in Islanda però a vendere cioccolata calda in uno stand. Come? Davvero? Sì, ma era tipo una roba di gruppo che bisognava fare, molto carino, un'organizzazione eccetera, però è stata una cosa di un giorno. Come l'ho voluta inserire nel curriculum? Scrivendo venditrice di prodotti locali in Islanda, a Reykjavik. Questa è una cosa bellissima. Anche perché tu avresti potuto farlo anche solo per un'ora. Per ma un'ora. Fa curriculum, esatto. Assolutamente. Mi raccomando, vendita di prodotti locali. Ma effettivamente, guarda che le cose basta solo scriverle nel modo giusto. Ti dirò che l'altro giorno stavo avendo una conversazione molto divertente con una mia amica e ho scoperto delle paure che ha nel vivere da sola, e io le ho trovato un sacco di soluzioni pragmatiche. Tipo, lei mi ha detto: io non so aprire i barattoli, che io la trovo una cosa assurda, e io le ho trovato un prodotto che praticamente ti aiuta ad aprire i barattoli. Quindi, ma che bello, per ogni cosa le ho trovato una soluzione, ovviamente su Amazon, ma non lo diciamo. No, facciamo pubblicità. E lei mi ha detto: caspita, ma hai una grandissima capacità, dovresti metterlo in curriculum. Mi ha detto: sì, trovare le cazzate più cazzate, cioè di quegli oggetti che riempi casa e non userai mai nella vita, però io te li so trovare. Devo mi piace. È una cosa che scriverò molto presto sul curriculum. La vasellina per i barattoli, carina come cosa. No, sì, questa la devi prendere un po' la larga, inficcarci un po' qualunque cosa, però sì, dovresti scriverla anche secondo me sul curriculum. Ma allora, ma io ti direi, Ile, che sinceramente io non ho parole in più. Quindi direi che lascerei spazio alla musica, ma soprattutto ai vostri messaggi 333 180 94 94. E tutto non è detto per caso, infatti ci ascoltiamo Raresh con Io non ho parole in più. Io non ho parole in più. No, discorsi in più, come mi sai tu non cambio mai. Io non ho mani in più, non ho piedi in più, e correre di più non serve mai. Lasciami essere l'ombra sul parquet, i tornelli, il gas sotto le pentole, la zecca sul tuo cane, un cancro al polmone, che sono stanco, stanco e non voglio fare bravo, voglio solo piangere sul tuo divano. Caso miei, oh miei, oh miei. Io non ho parole in più, non ho discorsi in più, come mi sai tu non cambio mai. Io non ho mani in più, non ho piedi in più, lasciami essere il cazzo che mi pare, il cazzo che mi pare, se stringi mi fai male. Dio un bravo il papa, la sua nuova fidanzata, che sono stanco, stanco e non voglio fare bravo, voglio solo piangere sul tuo divano. Caso i miei, oh i miei, oh i miei, che caso i miei, oh i miei, oh i miei. Io non ho parole in più, non ho discorsi in più.